24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore, dona a tutti la speranza di una vita che non muore. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Con la bisaccia in spalla, a piedi nudi vai. La libertà d'espressione, ma ognuno non solo ha la libertà, ha il diritto, anche l'obbligo di dire quello che pensa per aiutare al bene comune, ma senza offendere. Dappertutto il mondo Francesco, porta la pace, la gioia, l'amore, dona a tutti la speranza. Che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Dona a tutti la speranza di una vita che... Avete capito? Porgi l'altra guancia. Per carità, adesso oggi già le letture dei giornali dicono che bisogna interpretare le parole del Papa, che ha parlato in maniera un po' più complessa. A me risulta che abbia detto: se uno insulta mia mamma, gli do un bello sganassone. Ed è normale, eh? È normale. Il Papa parlava della vicenda molto molto seria, no? Di Parigi, a dire il rispetto, non bisogna insultare le fedi altrui. Questi di Charlie Hebdo, insomma, questo lo dico io, non l'ha detto il Papa, ma rispondeva a un giornalista di Parigi, a un giornalista francese. Questi di Charlie Hebdo hanno insultato un'altra fede, quindi un bello sganassone ci sta, eh? Dona il cuor di Cristo. Sì. Un sorriso, sì. Una carezza. Alle 6:30 minuti. Porgi l'altra guancia o un bello sganassone al dottor Gasparri. Poveretto, chi è questo dottor Gasparri? Lo vorrei conoscere. È un suo amico, no? Gasparri. Lui ha detto Gasparri, ma sui giornali c'è scritto Gasparri, perché mi dicono: non è Gasparri, no, sennò dopo sembra Gasparri quello. No, per carità, il dottor Gasparri, mio amico. Chi è sto? Vorrei conoscerlo, sto poveraccio che se insulta la madre di Papa Francesco si becca un bello sganassone. Va bene, sono le 6:31 minuti. Ah, quante notizie! C'è questa, c'è la liberazione, evviva ovviamente, di Vanessa e Greta, 180 giorni in Siria. Anche qui le polemiche. 6 milioni almeno per il Corriere, 12 milioni secondo i terroristi, 20 milioni titolo del giorno, avanti, venghino signore e signori, chi ha da offrire di più? 20 milioni e 1, 20 milioni e 2, 20 milioni e 3, aggiudicato, è evidentemente la cifra più alta che è stata battuta oggi dai giornali. Va bene, dai, questa è 24 mattino e si chiude l'89esima settimana decisiva per la riforma elettorale. L'abolizione delle province, non ce l'abbiamo fatta, ma la 90esima è alle porte e siamo ottimisti. Saluto Lorenzo Nespoli, apro il Parlamento insieme al nostro Peter Bescapè. In regia, dai, Alpino, forza, apri. Adesso tira vado sulla a prendere Claire. Un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Allora, tante cose di cui parlare, a cominciare dagli sganassoni che volano. Voglio salutare un graditissimo ritorno intanto Alessandro Giglioli, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno. Piovono rane. Giglioli, poi tra l'altro, ma tu sei buddista, è vero? No. No. Chi te l'ha detto sta roba? le voci ho detto, si trovano. Ho detto una cavolata. Io ho una moglie buddista, ah! non è che per osmosi uno ha la fede della sua moglie. Capito, no? Che però qualcosa mi ricordava adesso. Non è che... Vabbè, ho capito. Hai la moglie buddista. Io devo dirti la verità, io la piglio per i fondelli tutti i giorni, quindi non è che... Quindi tu sei un rispetto, tu sei un ateo, un agnostico. Agnostico dubbioso. Allora, Alessandro, ti presento la nostra direttorissima Aurora. Che sei? Una volta. Una volta? No, sì. Per me tu sarai sempre la direttorissima Aurora Lussana, direttorissima della EIFU Padania. Scomparsa. Buongiorno caro Milan, come sempre un caro saluto a te, ad Alessandro e tantissimi amici di Radio Padania Libera. No, Radio okay. 24, scusa. Ecco, ma no, ma saluta pure quelli di Radio Padania. Primo amore non si scorda mai. Vuoi ascoltare un po' Radio Padania? Fai pure, cioè non se vuoi. No, abbassato. Hai abbassato? Sicura? No, radio. Sì. Vuoi tirato giù Sammy Varin. Sì, hai tirato giù. Chi è che c'è in onda? Quel disgraziato di Sammy Varin. Va bene. Salute. No, vabbè, ma già c'è un'altra trasmissione che dovrebbe pagare i diritti d'autore a Radio Padania. Alla Zanzara. Quindi non esatto. Allora, vogliamo partire dallo sganassone, Giglioli, lo bello sganassone assestato da Papa Francesco. Ma guarda, la prima cosa che ho pensato è che non so nulla della mamma di Bergoglio, ma non è che l'ha fatto in un gran bel quartiere, evidentemente. Cioè, un quartiere in cui ci si abitua a dare cartone in faccia a più non posso a chi ti dice qualcosa. Io di conoscenze teologiche non ne ho moltissime. No, neanche io. Non sono proprio esperto in tema di dottrina cristiana sul famoso tema porgi l'altra guancia. Non mi sembra coerentissimo col porgi l'altra guancia, ma pazienza. Sì, poi ripeto, sono questioni che riguardano i credenti, non riguardano... Però vabbè, insomma, cosa vuoi ti dire? Se l'avesse detto chiunque altro... Pensa se l'avesse detto un politico, ma sì, di destra o di sinistra è uguale, di destra o di sinistra, o se l'avesse o qualcuno magari sospettabile di simpatie. Invece tutti a ridere lì, lo diceva il Papa. Gli si perde, perché questo qua è talmente simpatico, talmente buono, talmente pio che gli si perdona. Tu non so se questa qua pagherà, si perdonerà così come passerà, non lo so, come vabbè, ci sono già così liscia. Ci sono già delle critiche, una boiata è una boiata che dici fa, ci sono delle critiche, no, qualcuno dice attenzione adesso queste parole potrebbero essere, si sa poi il senso delle parole, giustificazione della possono della, no beh adesso dici una giustificazione, non lo so poi chi vuole chi vuole prendere a giustificazione può prendere tutto, però c'è la migliore amica del Papa Aurora Lussana Salvini che critica anche il Papa, eccolo lì, basta adesso. Perché ridi? No, nel senso, tanti amici che sono sede vacantisti, come sai, sono convinti che in questa fase postmoderna non ci sia veramente più un Papa che difenda la fede cattolica, però, siccome sto facendo il corso per fidanzati in parrocchia, San Francesco, Papa Francesco, c'hanno tutti ragione, quindi non vorrei mai essere bocciata al corso per fidanzati e quindi devo dire che No, potrebbero bocciarti, è vero? No, attenzione, effettivamente è un tema serio, Giglioli. Il minimo della vita è essere bocciati. No. Aurora Lussana deve sposarsi, cioè deve, no, nel auguri, senso, deve non per obbligo, vuole, ha deciso, spero. Vuole. Ma è un matrimonio combinato. No, però deve fare il corso per fidanzati, effettivamente esatto. Stai attenta perché tutto è registrato. Esatto. Quindi... Allora, esatto, diciamo che io avevo una grande devozione per Papa Ratzinger, il suo libro Con Marcello Pera senza radici ha avuto una grande influenza su di me, credo che queste parole di Papa Francesco forse però in qualche modo possono svegliare tanti cristiani che stanno subendo le offese nel mondo, e comunque Gesù Cristo era una persona coraggiosa. Da domani i cristiani si mettono a fare cartoni sul naso. Da domani, dai, subito. Viva, che bello! Beh, sì, è così, è un po' è così. Però guardate che su questa cosa anche Franco Cardini, che è uno storico, oggi scrive sul Secolo XIX, ecco, questo te lo segnalo, Giglioli, perché magari possiamo, lo leggerò anch'io con attenzione, il pugno di Papa Bergoglio, qualche imbecille sosterrà che Francesco simpatizza con gli assassini, in realtà la sua, no vabbè, questo è il titolo, in realtà il suo è un discorso di grande libertà. Perché sulla vera libertà, ecco, adesso per ora prendila così e poi dovremo approfondire un attimo. Va bene, prendo così cosa vuoi che... come un pugno che devo fare? Come un pugno la prendo così, mi faccio curare, no, l'esordio tra l'altro. Non ho detto niente io della mamma di Bergoglio, massimo rispetto comunque. Anche perché ci tengo al naso, quindi ci tiene al naso, esatto, vabbè, esatto. O la guancia, insomma, porgi l'altra. Ma perché Aurora ti sembra, cioè per te addirittura è stato un cristiani riscattate, i cristiani, insomma, reagite? Sì, smettetela di subire passi. Insomma, per Nietzsche i cristiani sono rappresentanti della religione dei vinti, no? Sì, però stava rispondendo a un giornalista francese e ha detto, ah, parliamo della Francia, cioè, quindi calato sulla Francia, sembra dire siete voi, cattedra, voi... Quindi, ho capito, ma noi sempre a fare l'esegesi, ogni parola del Papa crea una grande influenza nel mondo, sì. Quindi... Vedete com'è pronta per il corso fidanzati? Sì, è prontissima, no. È prontissima. Il Papa parla ex cattedra. Tu, Giglioli, te la saresti mai giocata questo gettone al corso fidanzati? No. Io non l'ho fatto. Mi sono sposato due volte, ma sono due volte sono rimasto senza corso fidanzati. Vabbè. Comunque, mi dicono il Papa ha detto si aspetta un pugno, non ha detto gli do un pugno. Dai, su adesso. Perché è la lingua. Posso dirti una cosa? Sì. A me ha fatto più impressione quando è andato a pregare alla Mecca blu e quando insomma si è rivolto alla Moschea blu verso la Mecca. No, diciamo che quando è andato a Istanbul a pregare, insomma, mi ha fatto un po' più impressione che questa frase, che questa parola. Ti ha fatto impressione, vabbè, Vabbè, vogliamo parlare, adesso vedremo un po' le reazioni. Un'ultimissima cosa, sì, sul Papa, come no? Come si dice, venenum incauda veneno. Incauda venenum, nella coda, il veneno nella coda. La frase del Papa dimostra forse che la divisione, una roba così un po' polemica finale, che la divisione vera non è tanto fra islamici e cattolici e cristiani, sì, in questa società, ma è fra tolleranti e intolleranti, cioè fra chi accetta che si dica tutto e chi accetta che si dica tutto. Vabbè. Questo è trattato sulla tolleranza di Rousseau. Citazione di Rousseau. Vabbè, se volete io me ne vado via a bere un cappuccio, questo è il massimo di intellettuale che posso fare a quest'ora, alle 6:39 minuti. Qua citano Rousseau, Nietzsche, ex cattedra, incauda venenum. Però, allora, cioè, una cosa dobbiamo dirla, che che è una radical chic, dai. Sto parlando con un vero aristocratico democratico, figurati te. Ma no, ma vi amavate fino a 10 secondi fa, adesso passate agli insulti. No, allora scusa, però un diritto alla fine deve vincere. Sì. No. Il diritto del cazzotto, per esempio. Il diritto del cazzotto, bravo. No, bravo, il diritto della nostra civiltà a prescindere dal credo religioso. Qual è la nostra civiltà? La nostra civiltà è quella della tolleranza. Esatto, del diritto. Non è che siccome arrivano qua le islamiche... Beh, della tolleranza, però scusa, Alessandro, scusa, se insultavano... Non è agganciato ontologicamente. Se insultavano tua madre al liceo, tu magari rischiavi di dare un cazzottone? No, guarda, caschi male. No, una spinta, un insulto. Io, pur essendo di sinistra, sostenevo che dovevano parlare anche i fascisti a scuola, e per questo io sono isolato da quelli di sinistra. Io sono uno di quelli che sostiene che Diodonné deve parlare, io sono uno di quelli sicuramente. Io sono perfino contrario al reato, guarda, io sono perfino contrario al reato di negazionismo, io sono profondamente e totalmente libertario. Credo che abbiano diritto, il reato di opinione non ci debbano essere, non ci debba essere vilipendio della religione, non ci debba essere oltraggio al capo dello Stato, e credo che la libertà di parola sia il primo e fondamentale valore occidentale, se vogliamo usare questa parola così abusata. E quindi, se vogliamo parlare seriamente, al di là del cazzeggio che a quest'ora è abbastanza lecito, credo che veramente la divisione, la questione che ci si pone dopo gli orrendi fatti di Parigi, non sia tanto la questione del cristianesimo contro l'Islam, ma sia la questione di coloro che ritengono che nessuna frase, nessuna parola sia agganciata ontologicamente, cioè abbia un suo valore in sé per sé, ma che sia tutto soggettivo e quindi ogni persona abbia il diritto di parlare, quindi qualunque reato d'opinione non debba esistere. Sì. Questa è la mia modesta opinione. C'è da dire che però, tra l'altro, non solo il Papa, poi parliamo allora delle due Vanessa e Greta, non solo il Papa, ma anche in Francia è nato questo dibattito. Uno dei fondatori di Charlie Hebdo ha scritto una lettera molto dura nei confronti del direttore ucciso, Charb, come dire, io ho visto. Che hai combinato, dove ci hai trascinato? La sua opinione, ma ragazzi, poi di fronte a una persona che è stata uccisa, c'è cioè una lettera, un j'accuse così forte nei confronti di una persona che ha pagato con la pelle il proprio lavoro, insomma, ma non è che questo gli dà non è che questo rende la sua opinione, no, ma questo per dire questo, no, questo per dire che c'è un dibattito laico, anche al di là del Papa, molto molto laico in Francia, male, da parte di chi ha scritto. Un grande dibattito interlaico a proposito del famoso dibattito interreligioso, che invece è ora di lanciare un bel dibattito interlaico, ha perfettamente ragione. Va bene, allora adesso dobbiamo entrare in un ambito più sereno. Allora, Vanessa e Greta, cara Aurora Lussana, allora, ieri l'onorevole Gianluca Pini del tuo partito, Pota, del tuo partito, no, Pota è bresciano. Si dice. No, è bergamasco. Pota, sì, che tu sai cosa significa Pota, l'origine etimologica? Vabbè, no, non. L'origine. Leggiti i sonetti lussuriosi dell'Aretino e capirai cos'è sonetti la Pota e quindi il lussuriosi. Tu leggi sonetti lussuriosi? Dell'Aretino, sì, da lì è, insomma. Mi dice un sonetto lussurioso dell'Aretino? No, mi bocciano al corso, dai, prematrimoniale. Vabbè, da dove deriva Pota, allora? Ce lo vuoi dire? Secondo te una cosa che si ama molto nelle donne. Ecco, va bene. Eccola. Molto bene. Allora, andiamo avanti. Dice una parola in bergamasco e facciamo un po' di etimologia della parola. L'hai fatta. Una cosa bellissima. L'hai fatta, spiccia e abbastanza chiara. Allora, Vanessa e Greta, Gianluca Pini, onorevole della Lega, scrive su Twitter ieri così: andrei a prenderle a calci nel culo. Testuale. Ah sì, lei ha fatto un tweet, sì. Ah, no, sì, ma, sì, l'ho letto. Ma riferito al riscatto, riferito al fatto che si sono pagati quei soldi. Ho capito, non è che se li sono pagati loro. Cioè che ma voglio dire, è stata una decisione del governo, quella di concedere questi, non sappiamo quanto, insomma, ai suoi sequestrati. No, diciamolo che siamo tutti contenti che sono state tolte dalle mani dei maomettani queste due fanciulle, le abbiamo viste tutte in quel video, quindi siamo tutti contentissimi che queste due ragazze. Ma no, ma che maomettane? Maomettani, dai, erano tutti, lo scrivono in mano a una banda di criminali comuni che fingeva. Avevano il velo islamico, maomettani, certo. Ma sì, cos'erano? Degli Hare Krishna? Erano in mano agli Hare Krishna? Erano in mano dei criminali, magari laici bestemmiatori, non lo sappiamo. Erano dei criminali, dai, che hanno fatto, dei criminali che hanno preso una persona. Bolivia era in mano una banda di cristiani, allora possiamo dire che. Vabbè, comunque finisci il discorso. Sì, siamo contenti che sono sane e salve dopo 6 mesi di prigionia, eccola. Poi la scelta del governo lì di pagare o non pagare, vabbè, quella è una responsabilità del governo Renzi. Vabbè, ma è uno scandalo. Nel mondo si sa che gli italiani pagano. Gli italiani pagano. E continueranno a rapire italiani in giro per il mondo e andiamo avanti così. No, questo è vero. Questo è un punto dal quale voglio ripartire dopo il traffico, la segreteria telefonica anche con Giglioli. Effettivamente io capisco tutto. Noi siamo italiani, salvare delle vite. Perché l'alternativa cos'è allora? Fatele pure uccidere e non paghiamo il riscatto. Gli americani fanno così, per esempio. Gli inglesi fanno così e ci imputano questo errore grave, quello di pagare i riscatti, finanziare con questo magari anche dei terroristi. E il dibattito, io su questo sono molto laico, non è che ho una posizione o l'altra, cioè è complicato perché coinvolge anche questioni molto umane come il rispetto e la difesa della vita di due persone. Che dobbiamo fare? Cioè, chi è che se la sente di dire ma sì, le ammazzino pure, il traffico. 24 mattino. Volevo dare un suggerimento al Premier Matteo Renzi per il futuro Presidente della Repubblica Italiana. I nomi sono tre e sono Paolino Paperino, Paperon de Paperoni e Archimede Pitagorico. Tutti e tre si sono distinti in alcuni settori che spaziano dalla cultura alla scienza. Sicuramente non sono più o meno pupazzi di quelli che c'erano in prima. Milan, basta con Prodi. Prodi è una mortadella, non la vogliamo, ok? Noi la mortadella non ci interessa. Buongiorno Alessandro Milan, io proporrei un tormentone. Vogliamo Buckingham Palace, che quantomeno ci costa tanto di meno. Io divento matto. Togliamo Peppa Pig dai libri di scuola per non offendere i musulmani e poi gli pubblichiamo le vignette blasfeme. Spiegatemi voi che siete più intelligenti di me, perché io non ci arrivo. Mila, buongiorno! Presidente della Repubblica, lo Tito, visti i conti della Lazio! Grande presidente! Ciao signor Milan, tanti baci cari da Bastiano da Foggia, sei anche nel cuore delle tue ballerine, le tue signorine del mattino, la carissima Lussana Aurora, la carissima Rossella Brescia, la carissima Paola Saluzzi e poi abbiamo anche la Boschi, abbiamo la Geloni, ciao Milan. Vabbè, tutte qui, Aurora, va bene, no? Tu sei gelosa? No, tanto ti devi sposare, quindi no. La gelosia è il primo elemento. Ma che non sia geloso il fidanzato, insomma. No, esatto, poi la gelosia è la prima causa di bocciatura, di stroncatura al no, corso. No, già sto facendo ore di ripetizione, quindi figurati. No. Vabbè. Allora, da recuperare, sì. L'annuncio, visto che avete detto ma è stata nominata Marielena Boschi, vogliamo ascoltarne la voce, le C che cantano, le S che suonano, l'annuncio da parte di Marielena Boschi della liberazione di Greta e Vanessa. Mi scuso con l'onorevole per non aver seguito il suo intervento nella parte finale. Ero però al telefono con Palazzo Chigi e sospendo un attimo la discussione che stiamo affrontando sulle riforme costituzionali per annunciare all'Aula una notizia che credo farà piacere a tutti noi, che Greta e Vanessa sono state liberate e torneranno presto a casa. Senti la S come suonava, Giglioli, capisci che sono cose che emozionano. Però contenta, aveva ragione, dai, una volta tanto. No, ma io farei ascoltare su mezz'ora di trasmissione 25 minuti della voce della Boschi. Però ti chiedo il riscatto. Allora, un po' di fastidio lo dà, sapere. Beh, allora, dunque. Beh, su quello della Lega ci stendiamo un pietro sì. Di silenzio, perché abbiamo speso molto meno in questo riscatto di quanto la Lega di soldi pubblici negli ultimi 20 anni, quindi preferisco darli per la vita di Vanessa Greta che per un partito, la Lega o un altro. In generale è chiaro, preferisco non darli soldi pubblici. Quando una società, quando una collettività ha un suo figlio, che sia un cooperante o che sia anche un contractor, come è avvenuto, nelle mani di terroristi, i casi sono due: o li si abbandona o li si cerca di recuperare. Per recuperarli i casi sono due: o li si va a prendere con la forza, se ci si riesce, o si paga. Allora noi dobbiamo scegliere questi due bivi. Li si può abbandonare, come fanno alcuni stati, e che evidentemente sono meno coesi del nostro, perché noi parliamo sempre spesso male del nostro paese, uh-huh. Ma una società leggermente coesa, decentemente coesa, non abbandona dei suoi cittadini. E quindi cerca di recuperarli. Per recuperarli si può appunto o andare a prendere con la forza se ci si riesce, o se non ci si riesce a pagare. A volte con la forza si finisce anche che vengono ammazzati. A volte ci si riesce, a volte Israele cerca di andarsene a prendere. Israele, che è una Vabbè, tu preferisci la linea dell'Italia, no, non so mai capire. Io credo che quando c'è un cittadino nostro, un cittadino del nostro paese, nelle mani dei terroristi, siano islamici o di altra fede, sì. Una società coesa cerca di andarsene a prendere, come fa Israele ad esempio, che di solito cerca di andarsene a prendere con la forza. Noi che siamo meno bravi, che non abbiamo capito, ma tutti cercano in qualche modo di andare a riprendersi, cioè, anche gli Stati Uniti fanno i blitz, sì, ma per alcuni è più importante, diciamo così, il mantenimento della linea dura che non ma certo, cercano di riprenderseli con la forza, ma non spucciano una lira, un euro, per noi un dollaro. È fondamentale, per noi è importante la vita del singolo, e quindi facciamo una cosa che non è bella, non è divertente, non è assolutamente utile, perché finanziamo indubbiamente dei terroristi. Però siamo, è una decisione molto pragmatica che a un certo punto bisogna prendere. Cosa facciamo? E poi bisogna anche vedere se alla fine non si spende di più lasciandoli morire. Questa è una questione molto, anche questa molto pragmatica e molto economica. Io mi chiedo se lasciandoli morire e poi dovendo per forza, per motivi di immagine, per motivi di altro tipo, per forza andare a vendicarsi con i droni, con gli aerei, con tutto, mi chiedo se alla fine non si spenda di più. Non lo so. Non so, Aurora, tu che dici? Ma tu dimmelo in maniera, perché in maniera brutale, cioè tu le avresti lasciate lì, avresti pagato. Cioè, tu, Aurora Lussana, sei il ministro dell'interno. Cosa fai? Un signor lo diciamo noi. No. Aurora Lussana, ministro dell'interno. No, ti metterei subito ministro dell'interno. Ma cosa fai? Cioè, proprio praticamente, cioè, ti siedi lì con i responsabili dei servizi di intelligence, i militari, dici: che facciamo di queste due? Paghiamo. E dovremmo preventivamente, secondo me, gestire meglio queste pseudo associazioni, pseudo mondialiste, pseudo umanitarie che vanno in Siria a magari in qualche modo avere rapporti con i ribelli anti Assad, e poi succede quello che succede. No, ho capito, però una volta che sono lì? No, una volta che sono lì si fa tutto il possibile per portare a casa queste due ragazze, e quindi si paga, quello lì è lì, però facciamo un po' di lavoro preventivo. Sì. Con l'associazione lì che ha un po' intortato su queste due ragazze, le ha mandate lì un po' allo sbaraglio, e van chiude quell'associazione, cioè come fai a credo a che i calci nel culo di Gianluca Pini si riferissero a questo, cioè nel senso, ma magari portiamole qui, portiamole in Italia, però adesso un bel calcio nel culo, come dire. E poi so che saranno sentite dai PM a Roma, perché bisogna capire questo. Erano vicine a certe brigate che poi guarda caso le hanno proprio rapite, insomma ci sono delle robe che non tornano. Mi auguro si farà magari un'inchiesta anche su questo, no, per capire come mai erano a favore di insomma ribelli che poi le ha rapite, le interrogeranno. Comunque le ragazze lombarde che siano contente che tornino alla loro casa, che bello, una in questo Rembate, una di Pellozzo. Io ho 30 secondi, ma certo, ma perché sono lombarde, una è del bergamasco, fai conto, pota, appunto. Allora mancano 30 secondi, che bello, per una volta non abbiamo parlato del Toto Quirinale. Ditemi però il nome, Giglioli, un nome, chi vuoi? Chi voglio mi butto dalla finestra adesso, perché non ero pronto su sta roba. Allora chi ci sarà? Mi facessi la solita pallosissima domanda su chi sarà, sta roba delle due ragazze lancia molto Gentiloni, ne siamo contenti. Gentiloni. Tu, Aurora, guarda, ti mettiamo questa per concludere. Aurora, preparati, Ma so che Salvini qualche volta ha fatto il nome di Caprotti, il patron di Esselunga. Se ci dà anche un po' di punti fragola, per lo sconto fidati. Un giovane, un ragazzo, dai. Sì, esatto, un ragazzino e ci dai punti fragola. Ti abbia messo la marcia nuziale, che meraviglia. Vabbè, auguri, Sì, siamo per la tolleranza, ma dove c'è Islam non c'è Occidente, non c'è Europa. Eccolo, ci lascia con una chicca pacata in conclusione sulla sigla la nostra direttorissima. Vi abbraccio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui. Si è chiusa ormai. Si chiude oggi l'89esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Si chiude con un nulla di fatto. ma la 90esima è alle porte, come dico sempre, di venerdì, e dunque ottimismo, coraggio. Noi oggi parleremo di che cosa? Parleremo un po' di Quirinale, parleremo anche di questa battaglia che c'è contro il fumo a 10 anni dalla legge Sirchia. Si era sparsa la voce, poi smentita dal ministro Lorenzin, che si volesse vietare il fumo addirittura nei film, con tanto di registi che si sono adirati, ha scritto un appello pubblico. Oggi Lorenzin dice no, non lo vieterò nei film, ma insomma la lotta al fumo va fatta, e 10 anni dopo quella legge che vietò il fumo nei locali pubblici è assolutamente sacrosanta, andrebbe implementata. Si pensa per esempio di vietarlo in macchina laddove siano presenti minorenni. La battaglia sul fumo, ne parliamo alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 16 gennaio ci sono aperture diverse, per lo più dedicate a Vanessa e Greta, liberate in Siria. Il Sole 24 Ore apre però sulla Svizzera. Berna sgancia il franco dall'euro, shock sulla valuta svizzera più 30%, crolla la borsa di Zurigo, euro ai minimi da 11 anni. Cercheremo di capire di che si tratta. Ma poi eccolo qua, il ritorno di Greta e Vanessa, Corriere. Il ritorno di Vanessa e Greta, Repubblica. Libere Greta e Vanessa, Il Secolo. Il ritorno di Greta e Vanessa, La Stampa. Si sono telefonati, evidentemente, i titolisti di prima pagina o i direttori ieri. Greta e Vanessa, incubo finito, questo per Il Messaggero. Greta e Vanessa libere, ci sono costate 12 milioni, questo Libero. Libere per 20 milioni il giorno, si può rilanciare, chi vuole può aggiungere qualcosa di più. Guerra in Europa invece per il giornale, mentre le parole del Papa finiscono in prima pagina di Avvenire. Libertà e rispetto, il Papa non si può offendere la fede degli altri. Il Fatto Quotidiano la mette giù un po' più diretta, il pugno del Papa. Questo è il titolo di prima pagina. Anche La Croce Quotidiano apre su La fede non si insulta. Mentre il Manifesto è il titolo di prima pagina dedicato a Greta e Vanessa, e da qui voglio iniziare a leggere qualche articolo. La diplomazia paga. Paga, e beh sì, perché la polemica, al di là della gioia, la soddisfazione, le interviste ai familiari, sono tornate dopo 180 giorni di prigionia in Siria. Vanessa e Greta, le due cooperanti che erano andate lì, le polemiche sono sul riscatto. Allora, il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini racconta che i video cifrati di qualche tempo fa erano proprio legati all'aumentare il prezzo della liberazione, questo da parte dei rapitori. Lo scambio, scrive il Corriere, sarebbe avvenuto tra domenica e lunedì dopo l'arrivo di un video che forniva la nuova prova in vita delle due ragazze rimaste prigioniere in Siria quasi 6 mesi. Si parla di 12 milioni, il Corriere dice 12 è troppo, ma un riscatto è stato certamente pagato, forse la metà, dunque forse 6 milioni. Libero, scusate, il Giorno invece mette in prima pagina 20 milioni. Libero scrive, beh, con questi soldi abbiamo finanziato 2.000 Kalashnikov, anzi 12.000 Kalashnikov nuovi acquistati dai terroristi. Con la cifra versata dal nostro governo si possono finanziare 2.000 cellule islamiche uguali a quelle di Charlie Hebdo. Questa è la posizione del direttore Maurizio Belpietro. Dunque, cioè, si è pagato e questi soldi finiscono a chi? Ai terroristi. Certo, la polemica è proprio su questo. Ci si concentra anche su un altro italiano, padre Paolo Dall'Oglio, che è scomparso anche lui in Siria ormai mesi e mesi fa. 29 luglio 2013 le ultime sue tracce, quindi anche più di un anno fa. Dall'Oglio è vivo, scrive Avvenire, è l'ultimo avvistamento, l'ultimo segnale, certo poi bisogna vedere l'attendibilità, è in una cella a Raqqa, in una cella tenuta dallo Stato Islamico. Questo almeno scrive Avvenire, mentre tra l'altro c'è un altro cooperante italiano che lavorava per una ONG tedesca che è scomparso in Pakistan. Lui invece è scomparso in Pakistan tantissimo tempo fa. Si tratta di Giovanni Loporto, 38 anni, di Palermo. Di lui davvero non si hanno più notizie, anche se ovviamente la Farnesina cerca in qualche modo qualche contatto. Sulla vicenda della Siria, Domenico Quirico sulla Stampa racconta, e Domenico Quirico, l'abbiamo detto tante volte, è un inviato di guerra ed è colui che è stato anche lui detenuto, rapito in Siria. Gli ultimi passi verso il confine con i carcerieri dietro nel buio, racconta Domenico Quirico le sensazioni che si provano al momento della liberazione, probabilmente le stesse sensazioni che hanno provato anche Vanessa e Greta. Quando ti annunciano che l'ora è arrivata, sto leggendo a pagina 3 della Stampa, poche centinaia di metri ti separano dalla frontiera, quella frontiera tutto si annulla, assorbito nel vuoto, per te contano solo quello spazio e gli occhi dei carcerieri che ti accompagnano prima di sparire dietro di te. Ti sovrastano stelle diacce. L'occhio si abitua alla bruma lunare ora che i fari delle auto su cui ti hanno trasportato sono stati spenti. Ricordo di quando sono sceso dal fuoristrada, ho riconosciuto il posto di confine con la Turchia da dove ero passato. Soprattutto ricordo i carcerieri che mi accompagnavano, silenziosi, sei occhi fissi su di me, che mi squadravano come se non mi avessero mai visto, sei occhi duri e scrutatori. Avevo l'impressione che mi denudassero l'anima. Sei occhi in cui si leggeva un misto di furbizia e intelligenza, crudeltà e potere, arroganza e vanità. Occhi che avevano visto certo altre migliaia di vittime come me in quei 4 anni di guerra. Occhi che erano sazi di tutto, annoiati, pozzi di indifferenza. La tua tragedia ci conclude in quella terra. E tutto questo avrebbe potuto essere diverso. Ti senti invadere mentre avanzi verso il confine, tre uomini dietro, i loro scarponi militari che sfregano le pietre. Ti senti invadere a poco da un sentimento ignoto come nei grandi momenti del sacro, mentre intorno nel buio e nel silenzio senti piccoli rumori della terra. Quando ho sentito le voci dei soldati turchi e degli italiani venuti a salvarmi e la luce, quanta luce in questa parte della frontiera del mondo, allora mi son chiesto quali ricordi si mischiavano in me. La fame, la sete, la sporcizia, le botte, sì, ma soprattutto l'organizzazione dell'avvilimento. Questo è il cuore nero del sequestro. C'è la distruzione del tempo che fa di questa tortura al rallentatore la stessa condizione umana. Ora che Greta e Vanessa, giovani testimoni sfortunate della carità che si fa atto, per favore, non parliamo di riscatto di soldi. Lasciamo la vergogna tutta ai loro rapitori. Così Domenico Quirico, che dunque vorrebbe placate le polemiche che invece campeggiano sui giornali per la questione dei soldi. Polemiche, prima di venire alla questione internazionale, ancora, che ci porterà a Bruxelles, ci porterà le parole del Papa, veniamo a due storie italiane che mi ha molto colpito. La prima, dal Corriere della Sera, è questa, con un richiamo in prima pagina: la camorra traffica anche sui vestiti usati. È un'inchiesta che ha portato a 14 arresti, a scoperchiare gli affari da milioni di euro sulla gestione di 1.300 tonnellate di rifiuti tessili. E Giovanni Bianconi ne scrive a pagina 24 del Corriere. Inizialmente era un'indagine sul traffico di vestiti usati, raccolti negli appositi cassonetti in molte città e destinate ai più bisognosi. Un servizio pubblico nel quale si era infiltrato il malaffare, probabilmente la camorra napoletana. Gli abiti donati venivano raccolti da società e cooperative gestite da personaggi che non si dedicavano ad alcuna lavorazione e spedivano clandestinamente i carichi verso l'Africa e l'est europeo. Una truffa che garantiva spese ridotte rispetto a quelle da sostenere, rispettando le procedure e guadagni maggiorati. È un'inchiesta della quale, scrive Bianconi in questa pagina, spuntano anche i legami con le cooperative di Buzzi, con camion che viaggiavano con certificazioni false sui trattamenti, sul recupero. In realtà trattamenti e recupero mai avvenuti. Ha portato a 14 arresti e a lei. Certo, il titolo e il richiamo di prima pagina è già di quelli che fanno pensare. Truffavano anche sui vestiti per i poveri. Ma siamo all'articolo che mi fa più scherzare di questa giornata, questo venerdì, e rimaniamo sul Corriere della Sera, dove Gian Antonio Stella racconta la storia incredibile, cari pensionati, cari italiani, della pensione di un avvocato comunale a Perugia, di cui peraltro si era già parlato sempre con Stella nei mesi scorsi. È la storia di Mario Cartasegna, avvocato assunto dal comune di Perugia nel 72, che, udite udite, è andato in pensione con una pensione annuale di 651.000 euro. Come sia stato possibile tutto questo è descritto da Gian Antonio Stella con la sua solita perizia a pagina 27 del Corriere della Sera. Intanto è assunto nel comune di Perugia dal 72 e riesce a farsi riconoscere, oltre al posto fisso, allo stipendio garantito da avvocato, anche una percentuale sulle cause, come se fosse un avvocato privato. E vabbè. E poi, insomma, ci sono tutta una serie di ricorsi, controricorsi, lui vince ricorsi al TAR, il comune di Perugia non si appella, l'INPDAP che gli deve dare una pensione non si appella, cioè anche una serie di burocrazie, di carte, scartoffie, insomma, che portano alla fine a una pensione di 651.000 euro. E questo avvocato Cartasegna, in una intervista di qualche tempo fa, ha detto così, testuale, due punti, aperte virgolette: mi sono ritrovato questa cosa senza neanche crederci. Quando lavoravo prendevo 10-12 mila euro al mese. Secondo voi potevo pensare di arrivare a una pensione così alta? Me la sono trovata come quello che vince il primo premio nella lotteria di Capodanno. Ma vi rendete conto? 651 mila euro è il doppio dello stipendio di Angela Merkel, anzi di Obama. È il triplo dello stipendio di Angela Merkel. Non è possibile una roba del genere. Vergognatevi, cazzo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua, tutti quelli che mi scrivono: ma perché urli? Vabbè, mi sono un po' adombrato. Non devo urlare, bisogna essere un po' più pacati a quest'ora del mattino. Vabbè, c'è chi mi scrive: Marco, mi sono scottato col caffè. Io ve l'ho detto, mani sul volante, sempre, ma è che tazzine del caffè bollente da appoggiare. Oggi non l'ho detto, ma insomma. Comunque mi scrive: mi rivolgerò a un avvocato di Perugia. parcella ricca, mi sa, quella dell'avvocato Cartasegna, 650.000 euro di pensione come ex avvocato del comune di Perugia. Allora, l'attualità internazionale. Beh, in Belgio c'è stato uno scenario di guerra ieri a Verviers, cittadina francofona non lontana da Liegi. Studiavano un attacco in grande stile, c'è stato uno scontro tra polizia e jihadisti erano tornati dalla Siria, paura in Belgio, e uccisi due uomini armati, uno arrestato. Le cronache raccontano questo e raccontano, insomma, di una giornata di vera e propria guerra, di terrore. Ma certo, l'attualità internazionale, in qualche modo, dopo le tragedie della Francia, porta le parole del Papa in primo piano. Il Papa ha detto, tornando dal viaggio in Sri Lanka, alcune frasi che fanno molto molto discutere. Una su tutte, ed è la questione del pugno. Il titolo del Corriere della Sera, che riporta tutte le interviste del Papa: la libertà di espressione ha dei limiti, non si gioca con la religione degli altri. Francesco, rispondendo proprio a un giornalista francese, ha detto: allora andiamo a Parigi, parliamo chiaro. Credo che tutti e due siano diritti umani fondamentali. Non si può nascondere una verità. Ognuno ha il diritto di praticare la propria religione senza offendere, liberamente. Non si può offendere o fare la guerra o uccidere in nome della propria religione, cioè in nome di Dio. A noi quello che succede adesso ci stupisce, no? Ma pensiamo alla nostra storia. Quante guerre di religione abbiamo avuto? Lei pensi alla notte di San Bartolomeo. Anche noi siamo stati peccatori su questo, ma non si può uccidere in nome di Dio, è un'aberrazione. E poi la domanda sulla libertà di espressione: ognuno ha non solo la libertà, ma il diritto e l'obbligo di dire quello che pensa per aiutare il bene comune. abbiamo l'obbligo di parlare apertamente, ma senza offendere. È vero che non si può reagire violentemente. E qui arriva la frase incriminata. Ma se il dottor Gasbarri, mio amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Ecco, queste frasi, poi ovviamente il discorso è proseguito da parte del Papa, ma questo pugno del Papa, vabbè, i vignettisti già si sono scatenati, eh? Vauro sul Fatto Quotidiano mette: Francesco, se uno dice una parolaccia contro mia mamma, si aspetti un pugno. Francesco proprio che lancia un gancio sinistro, il papagno. E invece Vincino sul Foglio, c'è il Papa che parla con un imam su dialogo interreligioso. Il Papa dice: io gli do uno sganassone e lo stordisco. E l'imam aggiunge: e io gli taglio la testa dopo. Vabbè, è chiaro che la satira si sarebbe scatenata su questo pugno del Papa. Il pugno è anche l'oggetto, per esempio, dell'intervista che il Fatto Quotidiano fa al direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Ma allora questo pugno? E Marco Tarquinio dice: ma mi sembra geniale in realtà questa analisi del Papa. La mamma è una figura che rimanda a una sacralità valida sul piano religioso e umano, riconosciuta da credenti e non. È un messaggio che coinvolge, tocca al cuore di una vicenda complessa. Sì, ma quel gesto di Bergoglio come va compreso? Cioè il mimare il pugno. Noi facciamo i giornalisti e insieme a tanti diciamo: io sono Charlie, o meglio Charlie. Ogni volta che c'è una vittima, io sono la vittima, il sangue versato è il mio sangue. Al tempo stesso però io non voglio essere Charlie se questo significa non rispettare ciò che è intimamente sacro per l'uomo e la donna. Va prevista la sberla? Chiede il Fatto con Carlo Tecce. C'è una differenza enorme tra la reazione istintiva e la pianificazione omicida. Non ci si può meravigliare se a un'offesa portata corrisponde un'offesa percepita. Il Papa parla di un grande amico, di un insulto a mia mamma e di un pugno. Ecco, perfino tra amici può scattare la violenza, che ribadisce però il Papa è sempre sbagliata. E poi dice comunque: quelle vignette di Charlie sono esagerate, sì, risponde Tarquinio. Vabbè, il dibattito c'è su questo pugno del Papa. Ovviamente i religiosi si interrogano, come scrive La Stampa a pagina 7 con Giacomo Galeazzi. La battuta sul pugno spiazza laici e fedeli, per alcuni ha posto un limite, per altri è poco cristiano. Insomma, il porgi l'altra guancia è un gran classico. C'è Massimo Gramellini che scrive in prima pagina della Stampa il suo buongiorno a dire: ma io ho chiesto a un parroco, ho telefonato a un parroco e gli ho detto: scusa, se uno insulta mia mamma io cosa dovrei fare? Il parroco mi ha detto: non lo so. Magari può, se è un santo incassa e perdona, altrimenti manda al diavolo e denuncia. Ecco, di pugni il parroco non ha parlato. Probabilmente sarà un prete all'antica, scrive Gramellini, più da sagrestia che da bar, mentre il momento storico sembra richiedere alle figure istituzionali di assumere il linguaggio emotivo delle persone comuni. E allora vi ricorrerò anch'io, scrive Gramellini. Eccolo qui, gioco di mano, gioco di villano. Lo diceva la mia mamma. E se qualcuno osa criticarla, gli mando un pugno del Papa. E vabbè, il pugno di Papa Bergoglio. Il tema però c'è: se anche il fondatore, uno dei fondatori di Charlie Hebdo, della rivista che così ha pagato con il sangue l'attentato di Parigi, ha scritto una lettera di critica nei confronti del direttore Charbonnier che è stato ucciso. E questo ha suscitato molto scalpore, molto dibattito in Francia. C'è una Francia che non è Charlie. Quelle provocazioni sono un errore. Titolo di pagina 10 della Repubblica. Almeno 50 accuse per apologia di terrorismo, ma uno dei fondatori della rivista accusa il direttore Charbonnier, come si firmava nelle sue vignette. E cioè a dire: dove ci hai portato? Non dovevi trascinare la tua squadra, la tua redazione in questa escalation. Le polemiche anche, perché l'avvocato del giornale ha risposto dicendo: ma insomma, poteva almeno aspettare i funerali prima di fare una lettera, un j'accuse così duro nei confronti del direttore, che peraltro è stato ucciso per queste vignette. Comunque il dibattito c'è anche in Francia, e cioè: ma insomma, queste vignette superano quel limite che secondo alcuni la satira non dovrebbe mai avere, oppure no, non superano alcun limite e mai bisogna criticare la satira perché appunto non deve avere limitazioni. Su questi dubbi si interroga la Francia intera, si interroga il mondo e ovviamente si interroga anche il Papa, che ha parlato di pugno. Ho intanto questioni ben più pratiche di borsa, quello che sta succedendo in Svizzera, dove Lino Terlizzi, a pagina 3 del Sole 24 Ore, ci racconta che la Svizzera ha tolto lo scudo al franco. L'annuncio a sorpresa è stato della Banca Nazionale Svizzera, che ieri ha abbandonato la soglia minima di cambio con la moneta unica fissata a 1,20 franchi per euro in vigore dal settembre 2011, abbassate anche di 0,5 punti, fissandole a meno 0,75% il tasso di interesse sugli averi in conto giro, sia sui fondi delle banche depositati presso di essa. Tutte le ragioni della svolta e quello che questo comporta per la Svizzera lo leggete sul Sole 24 Ore. Certo, uno shock sulla valuta svizzera, il crollo della borsa di Zurigo dell'8,6%, l'euro ai minimi da 11 anni, tutti i dettagli di quello che è sicuramente un qualcosa che viene letto anche a livello economico-finanziario da tutti i giornali e viene commentato. Questo mi permette di introdurre il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, la Svizzera, la Svizzera trema? Ecco, la domanda è questa, la Svizzera trema? No, trema, c'è un certo riassestamento in attesa della decisione della BCE settimana prossima sul cosiddetto quantitative easing, cioè delle iniziative non convenzionali, esatto, annunciate da Mario Draghi, dal governatore Mario Draghi, e questa mossa svizzera in qualche modo riposiziona i rapporti di forza tra le valute. Però se vuoi sapere come comportarti, non so se tu i tuoi due eurini che ti sono caduti a chiasso, perché ormai mi sembra appurato che... abbastanza appurato, devo verificare se sono 1,70 euro ormai o che e dipende se tu li avevi cambiati o no, caro Alessandro. Come trovi su una preziosa bussola oggi del Sole 24 Ore a pagina 2, spieghiamo come comportarsi dal punto di vista dei risparmiatori, perché se tu questi due eurini, al netto che tu li abbia o meno dichiarati al fisco, ma di questo parliamo tra un attimo, ecco, dipende, li avevi cambiati già o non li avevi ancora cambiati in franchi? E lasciamo il mistero su questi due eurini, ci saranno o non ci saranno? Intanto i tuoi due eurini, sappi però che se vai avanti sulle pagine Sole 24 Ore troverai questo interessante titolo per i tuoi due eurini: il fisco italiano nelle banche svizzere, scambio di informazioni su tutte le imposte, cioè il famoso accordo, preaccordo in questo caso, ci siamo, quindi ti invito a controllare bene, appunto, perché prima o poi, come dire, la dottoressa Orlandi saprà dei tuoi due eurini e vedi un po' cosa puoi fare, ecco, una mano sulla coscienza, come dire, e anche approfittando della voluntary disclosure, ma ti spieghiamo tutto oggi sul Sole 24 Ore. Ti volevo dire, oggi tra l'altro sul Sole 24 Ore parliamo anche di Jobs Act, perché il decreto attuativo, sai, quello che si era un pochino smarrito, poi l'abbiamo ritrovato, è arrivato al Parlamento. Ecco, adesso è in piena fase di discussione e però già cominciano un po' le richieste di modifica, ma trovi tutto oggi naturalmente sul Sole 24 Ore. Così come ti informo che parliamo ancora del contratto dei bancari, questa volta per annunciare che per marzo è atteso uno sciopero, è previsto uno sciopero anche per i dipendenti delle banche di credito cooperativo, e purtroppo lì, come dire, le cose continuano a non trovare una composizione. E poi ti volevo anche segnalare che non si farà per il momento la fusione tra Samsung e BlackBerry, cioè sai che c'era questa ipotesi di acquisto da parte di Samsung, ma se guardi nelle pagine nostre di Finanza trovi tutti i particolari. Infine, caro Alessandro, potremmo fare una staffetta generazionale, però dovremmo spostarci in Piemonte. Sai che in Piemonte stanno per varare una misura che praticamente consente ai lavoratori over 50, cioè ai giovanissimi come il sottoscritto, di ridursi il lavoro a part time se sono abbastanza vicini alla pensione per fare spazio a un giovane, nel qual caso insomma potresti essere tu, a meno che i due euro non siano di più, allora col cavolo che ti lascio il posto, caro Alessandro Milan. Ma come faccio a sapere tutto questo secondo te? Chissà dove l'hai letto. Dove posso averlo letto? Ma ovviamente lì, nelle pagine di norme e tributi. Oh, molto bene. Dove ho preso anche cose interessanti sui rimborsi IRPEF, ma adesso non c'è più tempo e volevo augurarti una felice domenica, tanti cari auguri anche per la tua squadra del ovviamente cuore, naturalmente, per la come tua, sempre. Per la tua che è un po' sotto alla mia. Beh sì, però non di moltissimo, diciamo la verità, complice il vostro ottimo rendimento delle ultime giornate. E a questo punto invece buona domenica a tutti gli ascoltatori e traffico! Carissimi fedeli, ascoltate Alejandro Milan e la sua rassegna stampa, è il chierichetto dell'informazione, palabra de Papa Francesco. Eh beh, oggi ci sta, dallo sganassone all'invito ad ascoltare la rassegna stampa di Radio 24. Bene, grazie Francesco, grazie molte. E allora, finora non abbiamo parlato degli articoli, ma ce ne sono anche oggi e continueranno fino al 29 gennaio e oltre sui retroscena per il Quirinale, anzi tra un po' aumenteranno a dismisura il numero di questi articoli, ma oggi le vicende di Vanessa e Greta, la vicenda del Papa hanno per il momento messo ancora in sordina questi articoli, ma ci sono giornale che vai, Toto Quirinale che trovi. E allora cominciamo a dire che per il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, a pagina 17, l'ipotesi è quella, secondo Renzi, di mettere Grasso ai primi scrutini, quelli dove però in genere non si vota il Presidente della Repubblica, e poi Bersani o Veltroni per il quarto scrutinio. Dunque Bersani o Veltroni sarebbero in pole position, ma i giochi ovviamente sono ancora molto molto da fare. In compenso per Repubblica i dubbi di Renzi sono proprio sugli ex leader del partito e dunque tra gli altri Bersani e Veltroni, anche se, lo abbiamo detto già da ieri, la strategia del Presidente del Consiglio sarà quella di far mantenere tutti sulla graticola, far pensare a tutti di essere potenziali quirinabili. E dunque Prodi, Fassino, Franceschini, Veltroni, Bersani, Epifani addirittura, cioè coloro che hanno guidato il Partito Democratico negli ultimi anni. Ma in realtà, secondo Repubblica, Renzi penserebbe a un politico puro ma pescato tra i dirigenti del partito mai arrivati al vertice. Il profilo che oggi ricalca molto quello di Sergio Mattarella. Dunque per Repubblica Sergio Mattarella torna in pole position, mentre per Berlusconi è Gianni Letta dovrebbe essere l'uomo, il suo uomo da sempre, colui che era l'eminenza grigia anche del governo Berlusconi, colui che trattava tutti i dossier più delicati, racconta Carmelo Lo Papa, pagina 17, insisto su Letta e no a chi mi ha sfidato, mi possono proporre tutto, possiamo discutere di chiunque, basta che non mi vengano a chiedere il voto per un ex segretario del PD o per chi è stato mio avversario diretto alle politiche. Questa sarebbe la posizione di Berlusconi che ieri tra l'altro ha dovuto far fronte a una diatriba interna molto forte all'interno del partito, racconta i dettagli in questo retroscena Ugo Magri. Che cosa è successo in una cena in cui erano riuniti Berlusconi e tutti i maggiori esponenti del suo partito Forza Italia? È successa una lite epocale tra Brunetta e Verdini, questo almeno racconta La Stampa, pagina 13. Ugo Magri racconta come siano volate parole grosse tra Verdini, che a Renzi darebbe il dito di una mano, e invece dall'altra parte Brunetta, considerato dal premier alla stregua di un terrorista. A un certo punto Verdini guarda Brunetta e gli dice: se continui così ti sputo in faccia, e l'altro gli avrebbe dato del disonesto. Tutto questo in presenza di senatori azzurri sbigottiti, urla talmente selvagge da mettere in allarme la scorta di Bossi, addirittura, cioè, c'era la scorta di Bossi anche, perché c'era Bossi in questa scena in questa cena e che ne so, pensavano addirittura che è un attentato dalle urla. Silvio ne ha approfittato, racconta Ugo Magri, per defilarsi dalla cena inventandosi una scusa: scusate, ma Umberto Bossi e Calderoli mi attendono, ma in realtà era totalmente disgustato dalla scena. Questo secondo quello che racconta Ugo Magri sulla Stampa. E poi invece per il Fatto Quotidiano, ve l'ho detto, giornale che vai, Toto Quirinale che trovi, per il Fatto Quotidiano invece è Amato la persona che sta scalando nettamente i pioli della scala delle Quirinalie. Eccolo qui: comitato Giuliano Amato, Napolitano è già al lavoro, scrive Fabrizio D'Esposito a pagina 10. È l'uomo che più vorrebbe lo stesso Napolitano come suo successore, Giuliano Amato. Mentre invece si registra all'interno del Movimento 5 Stelle lo stop netto da parte di Grillo, anzi il siluramento vero e proprio a Prodi. Il disastro dell'euro è suo. Prodi, che era credo sesto nelle ultime votazioni da parte degli attivisti del Movimento 5 Stelle come possibile da mandare al Quirinale nelle votazioni di 2 anni fa, e invece Casaleggio ordina l'altolà, Grillo silura Prodi, il disastro euro è suo. Questo è il titolo di Repubblica a pagina 18. E infatti anche il Corriere nota proprio questo: Grillo mette Prodi nel tunnel dell'orrore. Grillo ha messo nella galleria degli orrori Veltroni, che prometteva di andare in Africa ma è qui. La mummia egizia di Torino, Fassino. Grasso, bastone del governo contro le opposizioni. Finocchiaro, siciliana eletta in Puglia. Mattarella, yes man di Renzi. Amato, super pensionato da 31.000 euro e tesoriere di bottino Craxi. E Prodi, super candidato impallinato dai voti dei renziani nel 2013. Tutti nella galleria degli orrori. Cosa farà il 5 Stelle? Farà la solita votazione tra i suoi attivisti per dire i nostri candidati sono questi? Si resta in attesa. Oh, vabbè. Vi registro, vi segnalo un'intervista a Beatrice Lorenzin, ministra della Salute, visto che noi parleremo di fumo. Intervistata da Repubblica, risponde proprio alla lettera appello da parte dei registi che era apparsa ieri su Repubblica a dire: per carità, non mettete il divieto di fumo nelle scene cinematografiche. Ebbene, risponde il ministro Lorenzin dicendo: sul fumo nei film nessun divieto, non ho mai proposto una legge per vietare il fumo nei film e nelle serie TV. Chiedo però a registi e scrittori di incontrarsi per trovare insieme il modo di mandare messaggi positivi ai giovani. Non ho mai pensato ad alcuna forma di divieto, anche se ricordo che in Italia non si può fare pubblicità occulta. Non faccio lo sceneggiatore, faccio il ministro. Ma da anni è dimostrato come cinema e fiction siano in grado di promuovere immagini forti, positive e negative, che vengono assorbite dalle nuove generazioni. Dunque l'appello della Lorenzin è: incontriamoci. E poi dice: parliamo di guerra alle sigarette, comunque il dibattito è di alto profilo, visto che il vizio del fumo costa 70.000 morti l'anno e 11 miliardi di spesa sanitaria. Ormai si accende la prima sigaretta a 11 anni e dunque contro questo il ministro dice: facciamo un dibattito serio. Ne parleremo alle 8.15, avremo Sirchia, colui che fece la legge 10 anni fa, e avremo anche Filippo Facci. Chiudo però con l'articolo più inutile trovato sui giornali. Eccolo qui, lo sapevo, sul Giornale, a seguire le giornate di Napolitano. Fu presidente, ora senatore a vita, racconta il Giornale: nel primo giorno è tornato alle solite abitudini. Per pranzo ha mangiato solo 2 tramezzini con prosciutto e formaggio e ha bevuto una spremuta alla buvette di Palazzo Madama. Ha sistemato alcune carte ed è tornato a casa. Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Vogliamo parlare di fumo, perché 10 anni fa, ve lo ricordate 10 anni fa? La legge Sirchia, che prendeva nome ovviamente dall'allora ministro alla salute, che vietò il fumo nei locali pubblici. Vi ricordate le polemiche furibonde che ci furono? Eppure io credo, a parere personale, a distanza di 10 anni si possa dire che è una società migliore quella in cui viviamo, in cui non si può fumare su treni, ristoranti, cinema, nei ristoranti, in una scuola. Io credo che sia migliore, però insomma ditemi anche il vostro parere al 349 238 6666. Se ne parla ancora perché secondo alcuni non si è fatta abbastanza. Il ministro della salute Lorenzin oggi in un'intervista a Repubblica ricorda che per il fumo ci sono 70.000 morti all'anno, si spendono 11 miliardi di spesa sanitaria, molti accendono la sigaretta, ormai la prima sigaretta ha 11 anni. Per esempio, una battaglia del ministro Lorenzin è questa: la tesi mia come ministro in questo momento è di lavorare molto sulla prevenzione, e in particolare dopo le norme che ho già attuato, cioè quella del divieto di fumo nei plessi scolastici, nelle loro pertinenze e negli ospedali, introdurre quella che è stata una mia battaglia già lo scorso anno, cioè il divieto di fumo nelle auto con i bimbi a bordo. Divieto di fumo in auto con i bimbi a bordo. Saluto il professor Girolamo Sirchia. Buongiorno, professor. Buongiorno a lei. Senta, a distanza di 10 anni, lei si sente di aver fatto una cosa positiva per il paese? Mi sembra di sì, nel senso che, a parte che questa legge ha scoraggiato molti dal fumare, soprattutto ha consentito a molti di frequentare locali che prima erano impraticabili per la presenza di fumo e quindi l'inalazione di fumo passivo, ma soprattutto poi ha cambiato il rapporto tra il fumatore e la società e la rimanente parte della società, nel senso che è più prudente e più rispettoso di quanto era prima. Lei è d'accordo sul divieto in macchina in presenza di minori? Divieto di fumare? Assolutamente, ma assolutamente, cioè in macchina si depositano i tossici non volatili sulla tappezzeria in un ambiente ristrettissimo. Chi si siede lì e respira questi prodotti ovviamente ne ha un danno. Però mi sta dicendo allora che lo vieterebbe tu cura anche senza minori, perché ci sono dei assolutamente dei... Certo, cioè lei divieterebbe il fumo indipendentemente in auto, sì, con o senza, sì, minori, cioè sempre. Sì, nel senso che cioè il fumo in auto in un ambiente così piccolo comporta una tossicità, una presenza di tossici e una concentrazione di tossici molto maggiore che in un ambiente più ampio. No, è chiaro, ma è molto chiara la sua posizione. In un'intervista a Libero lei ha anche detto: io vieterei anche il fumo nelle scene dei cinema, dei film, nelle fiction, perché guardi, su questo c'è stato un appello dei registi, e il ministro Lorenzin oggi a Repubblica dice: questo no, io non l'ho mai proposto, non faccio la sceneggiatrice ma faccio il ministro, semmai sediamoci a un tavolo a discutere con i registi, con gli attori, con gli sceneggiatori, ma un divieto no. Lei perché invece lo vorrebbe? Ma io credo che, siccome ci sono prove scientifiche molto valide del fatto che soprattutto nei confronti di persone più labili, più facili a imitare, il film può indurre dei comportamenti di similitudine, no? Di imitazione. Insomma, questi film dove si vede gente che continua a fumare, e ovviamente uno sospetta che la cosa non sia proprio spontanea ma sia provocata da interessi, che influiscono sui giovani che guardano in maniera tale da indurli a fumare, non mi sembra che sia... Non va bene, quindi divieto. Un approccio, allora, educativo. Ci vorrà una mediazione, nel senso che ci debbano essere dei limiti a questa presentazione. Io ho visto una fiction televisiva poco tempo fa dove il protagonista, cioè il buono, continuava a fumare dall'inizio alla fine. Allora mi chiedo, ma è logico? O questo è un messaggio promozionale? Se è un messaggio promozionale, scrivi che è un messaggio promozionale. Oppure dimmi se hai finanziamenti dalle multinazionali di tabacchi, e io mi rendo conto che quello è un messaggio promozionale. Vabbè, il buono che fuma non va bene. Allora, professor Sirchia, le voglio presentare uno che lei ha definito di recente proprio sul Libero come uno dei giornalisti che più le diedero contro all'epoca 10 anni fa. Filippo Facci, buongiorno Filippo e benvenuto. Buongiorno anche all'ex ministro Sirchia. Tra l'altro Filippo Facci lo vogliamo dire, tra poco uscirà con un libro a fine mese edito da Rizzoli. Non sveliamo sì, molto sì, perché poi, no, perché poi ne parleremo. Allora, Filippo Facci, la domanda sì. anche a te. Passati 10 anni, ha fatto bene sì. la legge Sirchia o ha fatto male? La legge Sirchia complessivamente ha fatto bene, nel senso che ha reso esecutivo, ha ficcato nella testa e nei comportamenti degli italiani dei divieti civili che c'erano sostanzialmente già nella legge amministrativa del 1975, ma che non erano rispettati. Cioè, in pratica oggi ci si comporta bene, non si fuma spontaneamente in luoghi dove non si poteva farlo, e tutta una serie, insomma, di comportamenti per cui la legge Sirchia è complessivamente giudicata positivamente, persino da me, lasciando perdere i dati scientifici e queste cose. Per altre cose, la legge Sirchia, ma è il primo a saperlo l'ex ministro, invece non ha funzionato molto, non tanto in aspetti tecnici come gli sceriffi antifumo, eccetera, ma nel fatto che si estendeva anche a luoghi, ad ambienti e abitudini che gli italiani non si sono mediamente dimostrati disposti ad avallare, tipo, non lo so, in spazi privati aperti al pubblico, tipo uno se avesse avuto un proprio ufficio da commercialista non, in teoria non poteva fumare mai, anche se l'avesse fatto in casa propria, per dire, quello non è passato, insomma. Così come in molti luoghi, discoteche, così, insomma, si sono un po' regolamentati da soli. Perché? Perché oltre un certo livello di accomodamento, gli italiani, ma non solo gli italiani, ci sono tanti altri paesi più permissivi del nostro, sì. si dimostrano indisponibili ad andare. E quindi non bisogna andarci. Perché? Non solo e tanto perché non funzionano, ma perché, e questo secondo me è il punto più importante di tutta questa questione, si trasforma la diminuzione del fumo, che è innegabile, che c'è dappertutto, in tutto l'Occidente, in una dimensione eretica a quel punto, cioè la si fa diventare vincente proprio perché si aumenta il proibizionismo, e questo è un grande errore. Il proibizionismo, si sa, nella storia, e questa è una teoria, ha sempre incentivato in alcuni casi l'utilizzo di alcune sostanze. Però, Filippo, vorrei capire perché in un recente intervento su Libero tu parli dei prossimi provvedimenti allo studio, l'abbiamo sentito quello della Lorenzin sul divieto di fumo coi minori, il professor Sirchia vorrebbe anche il divieto di fumo in auto tout court, oppure nei parchi, e tu parli di salutismo integralista e di provvedimenti comeinisti. Allora, come la mettiamo? Sì, vabbè, queste sono parole. Io dico, la questione è semplice. Se in Italia vieteranno il fumo in spiaggia, sarà un insuccesso. Se lo vieteranno dentro le auto, sarà un insuccesso. Perché gli italiani giudicheranno, inutile. Perché è chiaro che se ti metti a fumare in spiaggia è una cosa che si capisce lontano un chilometro che possa non dare fastidio a nessuno. Sì. Si penserà che la legge vuole che tu non fumi, non che tu non dia fastidio agli altri. C'è il problema del mozzicone, credo, sia quello legato anche... Sì, ho capito, allora in auto c'è il problema che può far fare degli incidenti. Ecco, io darei più dignità a quello, però insomma, in una frase... Il fumo, lo sanno per primo le multinazionali citate dal ministro, è in assoluto declino in tutto l'Occidente. Lo è da solo, senza campagne di sensibilizzazione. Nei famosi film sono sempre di più, i perdenti e gli sfigati e gli emarginati a fumare, mentre una volta era Humphrey Bogart, eccetera. Quindi progressivamente questo problema si risolve da solo, gli stessi mercati si risolvono, vanno in Cina, vanno in India. E questa cosa si può fare per interrompere paradossalmente questo declino? È trasformare in qualcosa di eretico e restituire status al fumatore medio. Cioè, se c'è la cosa peggiore da fare è demonizzarlo per renderlo in qualche modo. Ma certo, ma c'è purtroppo, i dati che vengono citati di continuo dimostrano questo, perché in Italia è vero che diminuiscono i fumatori, come diminuiscono in tutto l'Occidente, ma diminuiscono meno che altrove, e si vede che le categorie che invece paradossalmente in proporzione aumentano, cioè fumano di più, sono quelle che per definizione sono come dire, quelle in direzione dell'emancipazione, cioè i giovani e le donne. Ma questo è interessante, però questa politica, professor Sica, questa politica aggressiva per facci non è il modo migliore, perché in fondo poi naturalmente già gli italiani capiscono che è sbagliato fumare o no? Si regolano da soli, lei che dice? Ma dico che effettivamente gli italiani sono stati bravissimi, anche perché il 90% della popolazione intervistata ha dichiarato che era d'accordo sulla riduzione, cioè sulla proibizione del fumo nei locali chiusi. Quindi questo è vero, però chi sono le fasce deboli del sistema? Sono proprio quelle che ha indicato i giovani intanto. Esatto, i giovani e le donne, le ragazze che cominciano a fumare sempre più presto e che ovviamente si ammalano di più, nel senso che soffrono di più di questa contaminazione. Ma allora, e lei crede che una serie di divieti sia la strada giusta per impedire questo, o la prevenzione forse? Ma non è l'unica cosa, però sicuramente la combinazione di una informazione migliore da un lato e dall'altro di alcuni divieti riesce e funziona, cioè i dati nel mondo dicono questo. Però purtroppo è vero che noi ci contrastiamo, abbiamo dall'altra parte dei produttori che hanno dei mezzi a disposizione immensi e che promuovono il loro prodotto e quindi studiano ogni possibilità per perché il loro prodotto sia venduto. Beh, questo lo trovo anche normale, no? Diciamo, un'azienda che produce un prodotto cerca di venderlo. Quando il prodotto è dannoso all'umanità, di solito c'è qualche scrupolo. No, questo sì, però dal punto di vista del produttore, che dovrebbe fare un produttore? Produce un qualcosa e dice no, non vendiamolo, teniamocelo in casa. No, tant'è vero che su questa storia della produzione di un prodotto tossico oggi c'è un movimento di pensiero che dice smettiamola di contrastarli, cerchiamo di sradicarli, perché non ha senso che si continui a vendere prodotti che nuociono all'umanità e all'ambiente. Una delle teorie è questa: aumentate, e è un classico che arriva anche adesso via SMS, ma è una linea proprio di pensiero, aumentare esponenzialmente il costo del pacchetto delle sigarette, caro Filippo Facci, quindi aumentare le tasse, già lo Stato quando deve gravare su qualcosa aumenta le accise sulla benzina e le tasse sul tabacco, quindi già lo fanno, ma aumentarle esponenzialmente in modo da rendere davvero quasi sconveniente, quasi impossibile per alcuni garantirsi la sigaretta. Che ne pensi? Ne penso, forse vi sorprenderò, che ci siano solo due i modi di far smettere di fumare, anzi tre. È dimostrato nei paesi anglosassoni. In effetti aumentare il prezzo delle sigarette, non c'è niente da fare. In Inghilterra in particolare è così. Cioè, se vogliono che la gente fumi sempre meno, o si fa come nel Bhutan, una nazione dove è completamente vietato fumare, oppure si colpisce il portafoglio. No, ma non è così, con un mezzo euro alla volta, 10 centesimi, 20 centesimi. Proprio aumentarlo fa costare 15 euro un pacchetto, c'è niente da fare, funziona così e funzionerebbe così. Però c'è un'altra cosa che però, di cui qua non introduco se non citandola suggerimente, ed è stupefacente che non si promuova, perché la vera rivoluzione per far smettere di fumare sono le sigarette elettroniche, che inspiegabilmente però vengono osteggiate e sono state tassate. Io ho 10 anni che faccio che ricevo telefonate come le vostre per parlare di fumo, eccetera, eccetera. Alla fine l'unica cosa seria che ho trovato per smettere di fumare sono le sigarette elettroniche, a cui progressivamente togli completamente la nicotina e funzionano. Chiusa la parentesi. Sì. Poi non mi ricordo qual era l'altra domanda. No, la questione della tassazione, cioè agire sulla leva fiscale o sul pacchetto. Però già sei d'accordo, mi sembra di capire. Ma non è che sono d'accordo, io spero che non succeda dal mio punto di vista. Ma questo è il punto. Quello è il punto. Succeda, perché so che è la verità, che funziona. Poi chi fuma due pacchetti di sigarette al giorno? Se costano 15 euro, no? È chiaro. Ma se li proibiscono, allora sì che diventa, capito? Diventa anche poco che costi così. Perché diventa una delizia proibita a poco mercato. Ma è chiaro. Il ministro Sicchia ricorderà che vendevano 10 anni fa le sigarette DES sul teschio, capito? Perché? Perché? E questo spiegava tutto, spiegava il senso proprio di eretico e di proibito che, che stavano restituendo alla sigaretta, che una volta era una roba che ormai nei film fumavano solo i portoricani. Ma certo, ma qui Sirchia è il liberale facci che esce, cioè se voi proibite una cosa come è, succede nella storia, la rendete un frutto proibito da andare a cercare a tutti i costi, questo Sirchia capisce. Ma questo è assolutamente vero, ma noi non abbiamo mai pensato di proibire il fumo, cioè il fumatore può fumare quanto gli pare finché la sua libertà non contrasta con la mia, cioè la mia libertà è quella di difendermi da questo. E in spiaggia, a lei piace andare in spiaggia e trovare i mozziconi infilati nella sabbia? Ma quella è un'altra legge, quella è la legge che è vietato sporcare, allora, cioè non no, è no, la ma, legge ma, lei, ma lei ci va al mare, ci va. Io sì, ci vado e fumo e metto la sigaretta nel portacenere. Perché sei civile, Filippo, però lo sai che la gente non fa così. Ma è una campagna diversa, non bisogna proibire di fuori, è come proibire a qualcuno di mangiare perché poi sbatte per terra i rifiuti, è vietato buttare i rifiuti. Cioè dice fate una battaglia per la civiltà e per contro la sanzionate chi sporca, adesso sanzionate lo dico a lei Sirchia come se fosse al governo, però dico sanzionate chi sporca ma non vietate la possibilità. A lei non è mai capitato di stare in uno stadio e avere vicino uno che fuma il sigaro per esempio? Sì, è capitato. E non le capita di respirare quella puzza e soffrire quantomeno un disgusto? Cioè, e perché uno è costretto a subire il fumo di un altro che gli fuma vicino e inalare quella roba lì? Non ho capito, ma perché io non posso, se ho l'asma, perché non posso andare allo stadio perché mi si siede vicino uno che mi impesta col sigaro? Insomma, il dibattito come si sa aperto, io però mi devo fermare qui, però Sirchia, almeno sono contento di averla fatto in qualche modo parlare con Facci, so che non vi parlavate da 10 anni, ma questa cosa sono molto contento di questo, lo saluto cordialmente. Va bene, si sa, questa legge aveva fatto un po' arrabbiare tutti. Ringrazio professor Sirchia, ringrazio Filippo Facci che scrive su Libero, ripeto, a fine mese poi uscirà anche su Libero da Rizzoli, ne parleremo. La pubblicità 24 mattino. Ci scrive anche su Twitter Roberto Bertolini, che ci segue sempre con attenzione, lo ringrazio, il rappresentante dell'OMS, l'Unione Europea. 3 interventi efficaci contro il tabagismo: prezzo, proibizione della pubblicità e proibizione dell'uso nei locali pubblici, poi tutto il resto. Intanto ci ha chiamato anche Elisabetta Robotti, che da ascoltatrice ma è presidente dell'Associazione Nazionale Fumo Elettronico, leggo, buongiorno. Pronto? È caduta la linea, vabbè, al limite poi la recupereremo. Intanto saluto l'onorevole Maurizio Bianconi, buongiorno onorevole, come sta? È caduto, no, ma che è? Sono cadute tutte le linee, ragazzi, però qua basta citare le persone e le linee cadono. Comunque stiamo parlando e abbiamo parlato di tabagismo, di lotta al fumo e sapete che il ministro Lorenzin ha detto la prossima battaglia è quella del vietare la sigaretta in macchina, soprattutto in presenza di minori, quando invece il professor Sirchia, che era con noi, ha detto no, sarebbe da vietare la sigaretta tout court, sarebbe proprio da vietare assolutamente come una cosa sempre e comunque, sia che siano presenti i minori sia no. Uno che fuma è l'onorevole Bianconi, lo abbiamo recuperato. Onorevole Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno, io ho smesso. Ha smesso? Sì. Complimenti. Ho smesso da un momento all'altro, ho detto basta e ho smesso. E come ha fatto? Così? Così. Basta. Ho pagato un forte ingrassamento, ma sto molto meglio. Sta meglio e va bene, ha risparmiato anche un po' di soldi. Io ho smesso perché mi sono sentito un cretino, un imbecille di rovinarmi la salute. Ma io ho fumato 40 sigarette al giorno per 50 anni, eccolo, per 45 anni. Eccolo lì. Invece ha capito un giorno all'altro, vabbè, ma niente, le ha fatto scattare, ce l'ha capito da solo così. Sono vergognato di me. Ho capito, per anni no. E cosa le scattate? No, per anni no, certamente mi sono sentito autoumiliato, proprio così, proprio. Però mica è facile così da un giorno all'altro. Ma da un giorno all'altro da 40 a 0? Sì, da 40 a 0, ho detto basta. Basta. Non l'ho neanche tenuto in tasca, lo buttate via. Eravamo a cena, ho detto, ma sei proprio un cavettino. Perché tossivo, ma sono un idiota. E lo buttate via. Ha fatto questo esame di coscienza, cretino, sì, idiota. Sì, sì, e sì, via, sì. Bam, tutto via, va bene, nel cestino. Allora, però l'abbiamo chiamata per parlare anche un pochino d'altro. Ma intanto, lei, mi toglie una curiosità, era alla cena in cui c'erano Verdini, Brunetta, Berlusconi? C'era Bianconi? No, io non lavoro neanche a cena, se parlo di politica. Ma no, peccato, perché ci avrebbe potuto raccontare se è vero che Verdini ha detto ti sputo in faccia Brunetta. Guardi, non so se l'ha detto una cosa così, ma non stento a crederlo, perché Verdini, essendo toscano come me, non è che col linguaggio si tiene tanto. Sì, ho capito, lei si sa che chiama Renzi, com'è che lo chiama il premier? Matteo Cazzaro. Vabbè, però insomma ti sputo in faccia e non è molto toscana come cosa, proprio ti sputo in faccia. Ti uno scavaccio nel muso, sì, può darsi che lo potrebbe aver detto, sì. Com'è ti stia? Io uno scavacchio nel muso, ti sputo in faccia. Vabbè, è più detta così, sembra un po' più toscana, potrei capire la traduzione italiana, capisci? Sì, però detta proprio così alla toscana, ti tiro uno scaracchio nel muso, effettivamente. Allora, però, Bianconi, qui c'è da eleggere un Presidente della Repubblica, c'è poco da scherzare, eh? Sì, no, noi non scherziamo, sembra che sia Matteo che scherza. No, vabbè, Matteo Renzi per il momento tiene le carte coperte, no? Fa la strategia, pare che sia quella di far credere a tutti di essere quirinabili e poi giocherà il nome a ridosso attorno al 29 gennaio. Sì, ma guardi, siccome gioca a piglio tutto io, ed è un tutto mio, fa come le civette, io tutto mio, prende tutto lui. Non è colpa sua, la colpa è di quelli che ci negoziano, sono i battisti del Nazareno i veri colpevoli, non lui che fa il mestiere suo. Sono quelli che si fanno prendere in giro, che hanno rovinato il centrodestra, che ci hanno fatto perdere un punto la settimana per mesi. Cioè, è il mio amico Dennis che ha rovinato tutto in nome di fantomatici vantaggi. In realtà i vantaggi li trae solo Matteo Renzi. Ah, quindi lei starebbe con Brunetta in questa disfida? No, è lui Brunetta che sta con me. Ah, perché, vabbè, adesso. Perché se io dico questo è un anno. Poi ci siamo intesi con Fitto e lo diciamo insieme. E ieri, per fortuna, abbiamo visto un Brunetta risorto, insomma, come l'Anza l'ha fatto. Si è alzato dalla bara e ha detto va bene, meglio, siamo in più, sono contento, l'ha capito. Vabbè, quindi secondo la sua linea di pensiero che tipo di strategia politica dovrebbe tenere Forza Italia in questo momento? Non inciuciare con Renzi, questo mai, perché ti mai. Frega sempre il suo mestiere, cioè voglio dire, per esempio, tipo d'Italia, uno che essendo sindaco di Firenze, non essendo mai stato eletto, attraverso abili manovre di palazzo e nonne, ha sfilato il partito a Bersani, è diventato primo ministro fregando il mondo, non mantenendo le promesse, ha fregato Letta, ha scritto un libro che era il meglio del mondo, non l'avrebbe mai toccato, e dopo tre giorni gliel'ha tirato nel dietro, e noi ci si mette a trattare dalla posizione di debolezza. Cioè, mi faccia capire, non si deve essere dei deficienti, mi faccia capire. Mi faccia capire che in che cosa vi fregherebbe in questo caso Renzi, cioè qual è il nome che secondo lei sarebbe l'emblema della fregatura massima da parte di il pacchetto è complessivo, perché Renzi non è che da paghi 20 e lui piglia uno, lui ti dà uno, perché lui ci frega con una riforma del Senato che è un suicidio per l'Italia, il quale risponderà davanti a dei tribunali prima o poi, perché è una cosa vergognosa. Ci dà una legge elettorale, certo, perché mette l'Italia in mano a 51 persone assegnando loro la revisione costituzionale. Se noi passiamo questo Senato siamo morti per 30 anni, 50 poi, anni, ci vuole un colpo di Stato. Poi si prende una legge elettorale per cui, avendo il suo partito il 40% del 37% degli italiani, riesce a pigliare il 70% dei seggi e non se ne parla più. Magari vi accontenta sul Quirinale, dice almeno. No, poi si piglia anche il Presidente della Repubblica, che lui vuole sicuramente dei suoi, è molto debole, perché non è un uomo che mangia tutto quello che ha intorno, potrebbe chiedere anche del Rio, non so, un affare così, perché allora mi candido io, perché se mandano del Rio io so meglio. Lei è meglio ho più, di... ho più titoli. Intanto deve prendere i voti, deve prendere i voti del Parlamento. No, no, no, ma dico sotto il profilo della personalità. Ah, della dire. Personalità. Sì, cioè vuole una persona dei suoi, ma che non lo metta in ombra. Non lo mette in ombra, assolutamente no. Ecco, questo vuole. E invece lui. Lei chi vuole? No, perché mi faccia capire. Lei chi vorrebbe? Io l'ho già detto, io vorrei Antonio Martino, che è il più rappresentante del tipo di cultura che io predico in questo liberale, momento. Fondatore di Forza Italia, no, un uomo PDL. Serio. Questo mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Però mi sembra non mi sembra il nome. No, che lei possa... chiesto chi voglio. Ho capito. Dopo le chiedo. Sono disposto a intendermi su qualsiasi persona da bene, dalla Finocchiaro a Bersani. Io non faccio differenza di ditta, diciamo così. Qui ci vuole delle persone che sappiano che cos'è la politica. Sì, ma alla fine mi faccia capire chi sarà, cioè la figura. Sarà un ex segretario del PD? Questo lo garantisco, non lo so, perché io sono un laureato in legge, sono un discreto avvocato, sono un buon politico, ma ancora non ho passato esame da indovino. Da indovino no. Vabbè, no. Allora nel salutarla mi dica Berlusconi chi vorrebbe. Lei l'ha capito? Vuole Gianni Letta? Chi vorrebbe Berlusconi? No, lui vuole Amato. Amato? E l'ha detto più di una volta, perché secondo lui ci negozia, e sbaglia un'altra volta, perché Amato è quello che ha fregato gli italiani e ha fregato Craxi. Però mi sembra che vada in cerca di errori continui Berlusconi. Non ne chiappa più una. E vorrebbe Gianni Letta, direttore generale del Quirinale, come Donato Marra, che sono poi quelli che comandano davvero. Quindi è la coppia Amato Marra. Mi dica per concludere intanto. Amato Letta. Amato sì, Amato Letta, certo. Letta come Marra. Marra ha già fatto abbastanza guai con Napoli. Mi dica per concludere allora cosa avrebbe risposto lei allo scaracchione nel muso se fosse stato Brunetta? No, a me non me l'avrebbe mai detto. Non aveva il coraggio. No, perché siamo amici e separatissimi su questa questione, ma ci portiamo rispetto, abbiamo litigato a colpi di toscanatici, sì. Il punto nel muso, io ti vado a gli avrei risposto di un'altra cosa, un'altra cosa toscana, che, senza poi rovinare i nostri rapporti. Certo, cioè tra toscani si fa così. La ringrazio onorevole Bianconi, grazie, il traffico. Arrivederci. 24 mattino. Qualcuno un giorno mi ha detto, ovunque tu vada. Vabbè, vogliamo scoprire ogni giorno uno dei nostri ascoltatori / ascoltatrici che ci seguono fedelmente dall'estero. Fedelmente, adesso tutti i giorni, non lo so. Comunque, oggi voglio salutare Sara. Buongiorno Sara, dove sei? Buongiorno Alessandro. Da dove ci ascolti tu? Dove ti trovi? In questo momento dall'Inghilterra, da Cambridge, precisamente. Ah, fantastico, a Cambridge. Cioè, che fai lì? Io sono qui per un dottorato che prevede appunto questa internazionalizzazione. È un dottorato italiano che ho iniziato all'Università di Bologna, mm-hmm. in neuroscienze. E ecco, diciamo qualche volta qualcosa di positivo dall'Italia. Loro hanno dato questa possibilità e ci incoraggiano a trascorrere anche un periodo all'estero. E quindi mi sono trasferita qui a Cambridge per il terzo anno di dottorato insieme al mio compagno per finire questo percorso di studi. È fantastico. E qui si impone la domanda: e poi che farai? Cioè, perché Italia, ecco. Dottorato, neuroscienze, si dice cervelli in fuga, ci saranno più opportunità lì in Inghilterra oppure in Italia? Ma questo mi dispiace dirlo, è poco ma sicuro, perché purtroppo in questo momento l'Italia la ricerca è proprio sotto zero, non è ben valutata, non ci sono grandissime opportunità, le poche che si trovano danno comunque molta incertezza, e questa è la paura che vedo non solo in me ma in tutti i colleghi che intraprendono questa carriera, cioè incertezza massima per il futuro. Cosa vedi? La cosa più bella che hai notato in positivo dell'Inghilterra rispetto all'Italia e la cosa invece in negativo, la cosa che rimpiangi di più dell'Italia? Oh, la cosa più bella è, io credo credo proprio l'impostazione del percorso di studi, dei saperi, c'è molto più scambio dei saperi, c'è molta più collaborazione anche tra qui in Inghilterra. Cioè, tra dipartimenti diversi, ad esempio io collaboro contemporaneamente con psichiatria e psicologia, cosa che invece in Italia ho visto molto raramente. E invece la cosa che rimpiangi, la cosa che ti manca? Dall'Italia le persone, le persone assolutamente, la solarità delle persone, la socievolezza delle persone. Questa è una cosa che qui, ma sono da pochi mesi, però ancora non ti sei abituato, ma questa è un po' freddezza britannica, sì. Questa freddezza British. Sì, va bene, sì, Sara, sì. Io ti devo salutare, ti mandiamo un grosso abbraccio, ovviamente da Cambridge ci ascolti, immagino in streaming, internet, magari anche in podcast, sì, va bene anche in podcast, che ti svegli un'ora col fuso orario prima, non è che ti vogliamo far svegliare alle 5:30. Grazie Sara, ovviamente un abbraccio, e voi scriveteci continuamente se ci seguite dall'estero, scrivete a 24mattino e radio24.it. Vi mando un grosso abbraccio, buon weekend, ci sentiamo lunedì alle 6:30.